che è avanti. Hola. Ora lo è tre. Hola. Avanti. Chi è? Fabrizio. E tu dove sei? Sì. Buonasera Fabrizio, Daniele da questa. Sì, non dico. E cosa? Il segnale. Quanto è? Ma dove sei? Dov'è che ce l'hai l'antenna? Fabri, abito vicino a casa tua. Ah, ecco perché. 9,60 e va a sbattere lo Smith. Guarda adesso. Vai. Guarda, 1, 2, 3. Su 9,60 non va oltre, dai, almeno. Te lo risparmio. Chi è Break? Avanti, Gianni. Ah, buonasera a tutti, belli e brutti. Doppio rum, avanti. Buonasera Gianni Ghetto, buonasera. C'è Fabrizio, riprendi Fabri. Ciao Gianni, ben sentito. No, ero che stavo facendo una piccola riparazione e ho sentito il tuo segnale che andava a fondo scala. Pagappa. Ciao Fabrizio, ben sentito, dai. Sì, siete vicini Fabri, dai. In linea d'aria siete vicini. Se si mette sull'antenna, sul traliccio vede casa mia Fabrizio. Via l'Italia? E si conferma. Già ho capito allora. Fabri, ma troppo alta questa radio. Stai uscendo a tratti, stai uscendo tutto trappato. Guarda adesso. Ancora. Guarda adesso. Adesso un po' meglio. E adesso? Sempre un po' meglio. Tappa, no, aspetta, sono saltato, sì. E ora 1, 2, 3. Tendi a trappare, boh, vabbè. Strano Fabri, non lo so. Gianni, era a te. Da me sì, un pochino, ma non tanto. Forse anche con l'apparecchio con cui ti sta ascoltando. Con che apparecchio sei Fabri? Con K, no, ma adesso va meglio, NB togli Fabri, NB, ciao a tutti. Oh, questi apparati così li senti male, lo facevo anche a me. Ciao Claudio. Ciao ragazzi, ciao Fabri, non ne tolgo io per ascoltare a Daniele, se no mi fa in distorsione. No, era troppo poco fa, adesso già va bene. Mamma me lo fa lo stesso, anche a me c'è un segnale 9,40 qua. Ciao pagato, va bene, dai, sono entrato adesso, mi faccio una doccia e poi se ci siete ci sentiamo, se no buona serata a tutti. Vai Fabri. Va bene, va bene. No, io sono qua, dai, che stavo facendo delle cose, ho sentito a Daniele che il segnale era troppo forte, allora sono entrato un attimino. Ciao ragazzi, vai già. Ciao Claudio, mi hai sentito, dai. C'era un po' che non ci si sentiva. E che stavi combinando? Già, ma a giugno siamo, io sono in campagna. Sono entrato poco fa. E c'ho da fare alcune cose domani mattina, adesso facciamo la doccia e poi vediamo cosa fare, dai, non so, va bene, sai, c'ho da fare io lì, c'ho da fare, c'è già l'idraulico che sta iniziando a scoperchiare tutto, a richiestare il motore, a fare tutto, quindi piano piano adesso ce ne andiamo un paio di mesi. Dai Dani, riprendi, no, ma intanto che mi si fa scendere tutto, No, sono liscio, Cla. Sono liscio, no, stavo risolvendo quel problema dell'innesco, che l'ho risolto, perfetto. Stavo provando un po' in radio per andare al 45 a vedere cosa diceva ed è perfetto. Va bene, dai ragazzi, ne approfitto e c'ho un impegno urgente. Sentiamo dopo se coincide. Ciao Daniele, ci sentiamo. Avanti, Fabio. Sì, riprendo io e poi proseguo qua. Ma poi qua quel 440 che cosa ne voleva fare quell'amico tuo? Lo vuole riparare Fabri, lo vuole riparare, capito? Lo vuole riparare, non lo vende così, lo vuole riparare, c'è tutta la senti, è un preventivo, non lo so. Vedi te, vedi camomilla, non so che dirti, no, non me lo vuole vendere così. Va bene, fa niente. Tu non glielo ripari, no? Tagliando, è un preventivo, cosa ci vuole? Non devo adesso in questo periodo tempo che sto facendo lavori a casa, fra un po' dovrò andare via, qualche settimana, perché sto facendo dei lavori a casa. Io vogliamo una pressa, Fabri. Più che spedirlo fuori e farsi prendere magari in giro, è preferibile sai solo tu quando la controlli, la metti sotto strumenti, che cosa c'è, cosa non c'è. Io non posso farci nulla. Io come me l'ha data, l'ho presa, l'ho messa dentro l'armadio. Va bene, dai, ok. Aspetta che c'è una chiamata, ci siamo dopo. E via fa. Dai già, io ti lascio e faccio la doccia perché abbiamo scoperchiato la piscina e c'ho un buon bagno di ore. Che caffetteroni ogni anno mi fanno dannare, che si riempiono l'acqua, abbiamo tutti svuotati all'acqua con la pompa. Stellonata, tutti piegati, tutto pulito. Cazzo su cappetti. Vabbè, adesso si comincia a usare, guarda. C'è già caldo, fa piacere adesso immergersi. Quella per te riempita già. Riempita? E cazzo mica la svuota, ma scemo sì. Ma la svuoto io no. Io tolgo il motore, chiudo tutta la cosa del sistema, praticamente dentro lo smonto, scende sulla ruba, smonto tutto, c'è la casetta del motore dove riciclo e tutto, e poi si interroma, ci mettono tutti i cuscini in giro in giro al telone per mantenere il telone, quei cuscini che si riempiono l'acqua, capito? Ho montato il motore, ho spiegato tutto, ho messo in funzione, adesso devo avere 24 ore in funzione, poi inizio ad andare il trattamento, capito? Il trattamento del cloro, quello che ci vuole. E quel cagnaccio di chi era quello che mi hai fatto vedere da tutto? Quel cane era Orizzano, la vita era, no vabbè non te l'ho fatto vedere, Orizzano c'era la gara. Ce l'aveva un signore, una cosa allucinante. C'erano un pullman di inglesi. Un gruppo di inglesi hanno. Mamma mia, mi arrivi e dice, aspetta. Forse se ti chiudi la porta è meglio, va. Cosa? Ho detto se ti chiudi la porta è meglio, peggio di qua. E io già posso chiudere qua la porta. No. C'ho la finestra aperta, gira una bella rietta. Ciao T. Quanto voi c'è non c'è? Ahorita no, c'è questa gara di tiro alla fune. Quindi passiamo a un altro a trurio di impresa, un bulldog inglese, fuori Italia come lui, ha avuto due bastoni tedeschi e uno ne è uscito pure due denti. Ma gara di che cosa? Ce l'ha anche finito? Ehi, ha vinto Filippo assieme a Charlie, un cane uguale a lui fuori Italia, bulldog inglese. Tiro la fune, non hai mai fatto un cane che tira la fune. Mettono la pettorina, con il maniglione gli agganciano la fune da una parte all'altra, uno intestata e uno è un po' più avanti, l'altro intestata e l'altro più avanti. Due bulldog inglese contro due pastori tedeschi. A Giovanni è stata la bocca. Disintegrati lì. Che gare strane, non ho mai visto queste gare strane. Ma le fanno solo lì quella zona. Sì, Oritano, Macomer, la Basanta. Tutto un semanato la Basanta a vedere l'esitazione del gruppo Cinofio dei cani. Una meraviglia, vedete? È una cosa spettacolare da vedere. Pastori tedeschi, Labrador, dei cinofili, ci sono i cosi, un paio di Terranova, qualche Terranova, ma è una cosa bellissima, le cose che fanno quei cani, è una cosa bellissima, sì, Orizzano. E c'era Filippo mica va a fare le mostre, a passeggiare, Filippo anda a fare i cigari, tiro la fune, il carrello con i pesi, il tiro ai pesi, la corsa dei cosi, dei bastoni che praticamente sono dei bastoni messi in orizzontale, abbastanza grossi. L'istruttore ne ha uno piccolino, praticamente deve fare quello piccolino e lui deve trainare quello grande. Filippo è un cane da cosa, da slitta. Il telefono Claudio. Ehi. E Bettino, rientrato, sì. Ma io sono rientrato domenica. Kappa. Non ti ho più sentito, ho detto la scegliamo, che è fuori. infatti io ho mandato un messaggio a Antonio per vedere se di quelle cose mi ha spiegato appunto che l'ho preparato, però stavo aspettando a rientrare sulla tavoletta. Va bene, va bene, non proprio, infatti ho dato un microfono di mia a Cinegliano, l'altro del MC80, così lo usa così. Seia. No, vabbè, ma io poi Antonio gli ho detto senza impegno, non è che quando avevo voglia di farlo e quando ho tempo soprattutto di farlo, quando ce l'ho pronto di chiamarlo. Sì, sì, me l'ha detto, non è quello il problema, non è quello il problema, siccome mi ha mandato un messaggio lui che doveva provare, invece io ero la Similiano, stavamo sistemando l'antenna, capito? Ho detto, non sono a casa, ma capito, avete, l'ho preparato, lui la Similiano che l'ho preparato. Che ha cercato lui, mica l'ho cercato io, già non è roba mia, me lo fa sempre. Ma non si vediamo, ce l'aveva già il microfono, quindi ha detto che poi mi sembra venire lì, glielo consigli tu, non lo so, vabbè, arrangitevi. No, venerdì ma va. Va bene, va bene. Vai, beh, ti vedo. Questo uscio io via. Cominciano ad essere stanco, lì l'estate, mamma mia, allora si può cambiare, si trova come, eccolo lì. Ma secondo me si abbassa la amplificazione perché sento più una che a te. Abbasso la amplificazione? E la porta con chi? Perché? Da quel processore? No, perché sentivo un bene lì. Sì, perché sono tutte e due qua in bagno, stanno lavando in campagna. Ho capito. Stamattina sono andato... Sono andato in officina, ho visto Aurino. Ha visto Gabbo e Bugnetta. Così, stava operando. Sì, sono andato di la coppa, ma devo fare il conto. Hai capito? Che senza? Non gli ho compreso nulla. Ti interessa la scopa? Aspetta, fra un po' senti il phon qua, c'ho i capelli, casini, contro casini. Arriva veramente a cinema da bagno. Prima avete conto tu dalla coin. Si asciuga. No, stanno facendo la dei lavori lì nella strada dove sono io. Lì in località Balcone, no? Monte Otto. Sto cercando la toccare per vedere la lavagnetta. Ha detto io non me faccio doccia qua io. Ma è il resto, vabbè. No, io adesso mi domando, devo andare a fare un lavoro con un amico e poi ci sentiamo con quell'altro. C'è intenzione di continuare. Adesso vediamo. Bottino, qui che c'è un break sul fondo. Ho sentito, già, fammi entrare. Altri break sul fondo? Scappa lo pomeriggio, Santiago 7 per me, la radio è 3. Non di più. Sempre col portatile, sì, Lupo Grigio. Io sono zona via Baldetta. Ma ciao Lupo Grigio. Non so se gli amici ti ascoltano, avanti Tino, saluta a Lupo Grigio. Io te l'ho sentito, basso, Santiago 1, Radio 3, zona la Perugia, per farti capire presso a poco dove sono, in periferia comunque. Ciao Lupo Grigio. Come te li capire, Valida? Cosa? Come te li capire, Valida? Sei molto cos'è, scusa. Sai che mi sembrava all'inizio quello svizzero, Claudio. Ah, cosa? Quello che viene adesso d'estate. Che pare il gallo Valida, ma voglio vedere già le ceppi. Ciao, Lupo Grigio, buonasera. Claudio Sparviero dalla montagna di Carbonati. Ogni giorno si chiama. Santiago 7, Radio 5, va bene, va bene. Va bene, va bene. Asciuga. Senza processore sono amico 4.30. C'è tanta col processore. Va. Vamos alla playa. E ce lo stacchiamo, fino a quando non c'è nessuno si rompe il palle qua. Ah, io molto ne avete a fare poi silenzio. Ho visto la terra mitragliata. Avanti. Attento alle minacce, sai che ti fa uscire dalla camera. Non sei uscito, eh? Non lo so, chi è che non è uscito? Non lo so, ho visto la portata e basta. Adesso è uscito, so, io un po'. Eia! cazzo, se non attendo il microfono, non è che sei Don Trubic. Cioè, ammazza appena che si si può prendere un tasto. Adesso l'hai toccato ieri, i Minchi Gaini, mettilo a uno, mettilo. No, non è che l'ho toccato, qua, mi abbasso un pochettino. Stavo andando a abbassare il volume perché mi è arrivata una bassa, invece cazzo, adesso mi sembrava il volume, quello lì invece era Mickey Gay. Va bene, dai, ok. Buonasera a todos. Ciao, no, ci vediamo. Anche l'altro giorno hai fatto lo stesso errore, da gitto che a sinistra lo Mickey Gay, a destra lo Mickey, lo Gogio, il volume. Ehi, Claudio, ubbigliato un bel gaggio oggi, ciao già. Ciao, no, ci vediamo, non ti invidio. Ma te va oggi il caldo, Sì, abbastanza, va. Gatta. Va bene, avanti Tino. Sì, non fare parte, poteva, dai, anche qua, lo suono senza fare niente. Se già c'è l'aria condizionata, lasci vedere. Beati voi che battevate, io battevo quando ero ragazzo. E dov'è l'aria condizionata? Stamattina ce l'avevo perché ero con lo scavatore, stasera con un rullo e l'aria condizionata non la via. Ah, no, io pensavo che fosse sempre negativo. Chi è che vuole entrare? Avanti. Vabbè, vuol dire non vuole entrare nessuno. Tino, aiutami un parere. Non mi piace molto. Lo so, neanche a me, la verità si dica. Questo microfono non va bene. Vabbè. Comunque, aspettiamo ancora un pochino, dai, prima di fare altre prove. Il microfono è quello, Massimiliano? Un MC80, Gianni. Ah. Se su un K preferisco l'altro. Preferisco l'altro, sinceramente. Non è sul K, non è sul K. No. Questo è sul Cobra. Abbiamo fatto un adattatore, anzi uno lo sta facendo farettino da un suo amico e sta provando un MC80, gli ho dato io sul Cobra. Adesso proviamo l'altro microfono, appena pronto l'adattatore. Vabbè, non è presente la voce, non è come ti sentiamo di subito, ma si vede, non è che sia brutta, però non è la subita la tua radio. E a Tigrillo, cava cava, e vabbè, quella là è un'altra cosa, va. Sì, tutta un'altra cosa. E cosa, scusa, che sto parlando in verticale? No, stavo parlando con Gianni, no. Non gli piace, ha detto gli piace l'altra. Come faccio a uguale all'altra? Cioè, è completamente diversa. E come ti dite a me, Massimiliano? Siamo abituati a sentirti così, no? Adesso io sono sempre al processore. Attacco il processore e è troppo forte. Allora devo attaccare il processore. Capito? Vabbè, dai. Tutte le radio hanno una sua timbrica, purtroppo è così, però questa è molto bella, a me piace invece. Vabbè, purtroppo io ho la voce che vuole corretta con i toni, capito? Quindi serve per forza un microfono che abbia i toni, gava gava. Andà bene. E qui mi è arrivato un messaggio vocale, li prendete che lo ascolto. Sì, Massimilia, quello c'era il microfono a disposizione. Io 60 ce li ho tutti impegnati. Se avessi avuto l'85 magari si poteva fare la prova con l'85, no? Avevo dato. Vabbè, adesso vediamo con l'altro microfono, con il tunic, se corregge appena appena la tua tonalità. Cioè, il cazzo, la voce da orco. Toni molto bassi, tonalità bassa, acuti, non hai tu. Solo io e Tino ce li abbiamo gli acuti. Oh, io. Ma io me ce devo portare a ricovero l'altra di nuovo. Ti qua, mi stavo parlando un po' cazzo con Fabrizio, c'è un 4.40, è molto molto bello tra l'altro, c'ha le viti un po' arrugginite perché era in una barca, però si mettono le viti nuove, una verniciatina ai coperchi che per me potrebbe andare anche bene, però c'è la frontale nuovo, come il mio, nuovo, dentro è di pacca, mai stato toccato, niente, mai stata fatta una riparazione, però è muto perché è rimasto tanti anni fermi nella barca, quindi bisogna vedere. Può lasci pure che facendole solo tutta la parte del VCO si riprenda, capito? Però io infatti volevo dare a Fabrizio, però no, non vuole, il proprietario non vuole, anche tenerlo io che lo vuole riparare. Adesso vediamo. Ho detto a Fabrizio, se se la sente le fa un preventivo, glielo ripara, se no deciderà lui cosa fare. Se no, se me l'avrebbe dato a me a pezzi di ricambio, che gliel'ho chiesto, ti avrei dato quello che ti serve. Ma è un peccato, secondo me è un peccato a pezzi di ricambio, è meglio metterlo a posto con la radio. Magari ci vogliono 200 euro, non lo so, 250 euro, ci mette a posto. Mi tolto la pelle in bocca, se troverà pezzi di ricambio ricordati che mi servo al pezzo. L'avrei fatto sì, io mi avrei preso i pezzi che servono a me e poi gli altri ce l'avremmo divisi, però no, non lo vuole disfare, vuole metterlo a posto, il trippetto è in ottime condizioni, dentro l'armadio, in ottime condizioni. Ottime, dentro va, è nuovo, mai fatto una riparazione, c'è anche i filtri, c'è tutto, dentro non va nuovo, però è mutta, bisogna appunto solo Fabrizio, mettendo la sottostrumentazione, vedere cosa c'è, cosa non c'è, cosa c'è da sostituire, da cambiare, tanto ce la fanno tutta la parte del WCO nuova, su quello non si discute, poi bisogna avere tutto il resto, perché era, ti ripeto, tanti anni fermo, era in una barca, dentro un coso là, come si chiama, un case di mobiletto, filato lì dentro, e meno male che era filato lì dentro, se no era la lampada. Arrugginito le viti, figurati tu, lascia la sedia. O darsi pure che sia tutto, io non l'ho qui, ho tolto solo tu per qui sopra per vedere com'era, però ho visto che riparti non ce n'è nuovo, dobbiamo avere sotto tutto il circuito stampato com'è, o darsi pure che sia da rivedere queste cose, non lo so, comunque non è roba mia, non mi interessa. Se decide cosa devo fare, altro mi dava indicazione. Sono io il corrispondente, dove mi dice di mandarlo io lo mando, se invece Fabrizio decide quando si libera che ha un po' di tempo di metterle mano, lo ripara lui e ridinasce il biglietto, che te devo dire, gappa. Eia, vabbò dai. Devo sentare, devo fare cosa al PC e poi prendo. Ehi, dai, ci sentiamo dopo, intanto anch'io sto aspettando che ci liberi il bagno e poi anch'io me lo devo organizzare, sono già le 7:10 passate, così poi me ne esco un pochino col cane a fare una passeggiata, c'ho appuntamento con un paio di amici qua sotto, dai. Gianni, ci sei? Adesso qua. Stavo dicendo, io l'ho portato a casa a fare il vaccino, è arrivato questo tipo con un cane corso, starnutendo, tutto starnutile, starnutivo a sangue. Abbiamo bussato dal coso veterinario e ha detto, ma non è urgente, bisogna essere stato qualche forassato. E l'hanno dovuto addormentare, l'abbiamo fatto passare lui perché cantarono. Oltre il sangue sputava anche la palla e saltava addosso a tutti, c'avevo un casino, stava facendo. E lo poteva vedere subito già che c'era. L'ha fatto entrare, l'ha addormentato ed era tonto. E poi era tutto fatto contento, quando è uscito da qui. Stinosi, cazzo, Guarda, infatti a Frippa non lo porto mai dove c'è erba alta, perché ci sono i forassacchi. E lui che, soprattutto inoltre, stia attento anche al tuo, che annusano molto, stanno, se ne entra dentro il naso è un casino, lo so, l'altro giorno aveva uno alla zampa, era sdraiato e si leccava in continuazione la zampa, diceva lasciate stare la zampa, lasciate stare, perché c'era il vizio leccarsi le zampe, no? Soprattutto i speroni, cioè. Però una cosa continua, l'ho controllato e ce l'aveva proprio sotto, con la pezzetta sono riuscito a toglierglielo, gli ho messo appena appena di crema ed è stato tranquillo, però bisogna stare molto attenti in questo periodo. Non sai cosa c'è? Con le zampe, dopo che fanno i bisogni, che cercano di seppellirli, li si attaccano così, come loro fanno il gesto per seppellirli, li si attaccano le zampe. E poi con il naso come aspirano, come vanno ad orare, li entra dentro. E lo aspirano praticamente, quello lì cammina. E la padrona gli ha detto, ascolti, ma se poi li cammina questa cosa, se cammina dice li va in bocca, lo sputa dalla bocca, non c'è problema, il naso è collegato alla bocca. E se cammina nel verso giusto, dice, solo che se si blocca, dice, poi è una zona al tunnel. E molti li hanno dovuti operare in questo tunnel, non è cuscino. No, non era un cane di mare, lo stesso nell'orecchio. Nell'orecchio, era proprio in fondo, e la prima foce l'ha dovuto incidere e togliere. È un casino, sti cazzi, fa la sciacchi, so. Altro è palle, fatti campagna, non c'ho manco, nulla, tutto rasato al suolo, dove ci sono alberi è tutto diserbato, tutto già secco, tutto già pulito, fatto, tutto bruciato, ordinato veramente, quest'anno è un gioiello. Un gioiello. Qua hanno rasato, visto c'era il trattorino giù alla circoscrizione, l'altro dove lo porto, il parchetto qua in via Milano, il giardino nostro interno è tutto rasato, fra sciacchi non ne sono mai cresciuti, c'è solo erba, però è tutta rasata, quindi sono tranquillo. Il problema è quando lo porti in posti dove c'è erba alta, capite? Allora è un casino. Va bene. Ok, vabbè, ci sono già queste gare così, c'è il carrello con i pesi, cani tipo quelli, cazzo c'erano due San Bernardo, che hanno gareggiato, c'era un Labrador nero bellissimo, poi c'erano pastori tedeschi, c'erano due inglesi, poi c'erano due maremmani grandi, c'erano, come si chiama, due Rottweiler, però Rottweiler fanno una categoria più alta perché sono molto più grossi, di quelli lì non ne ho visto, di quelli non ne ho visto. Poi c'era una passerella di cani piccolini, di cigani da lecca, così, barboncini, tutti quei guffietti, tutti quei, come si dice, con le codette, ma che cazzo, ma quanto è bello, ma ci vediamo cani del genere. Hola. Ieri ce n'è da uno, si mette a piedi con le zappe di davanti e può vedere, ma che ha, troppo bello. Hola. Ehi, Massimi. Sì, ma che lì. Ce n'era uno, ha fatto più di 10 metri, con le zampe di dietro, a fianco al padrone, con le zampe di dietro, in piedi, camminando e muovendo le zampe di davanti. Usci curioso, cazzo, variamo un coso. Sì, sono bellini, ma a me piace un cane, che sì. Che ci sono cani belli da tenere, però. E vabbè. Avanti, Massimo. Va bene. Ok, Gianni, meglio va questo. Beh, sì. A Claudio gli sta bene il pitbull come cane. Non penso il doppio. È vero, pubblico. No, un cane che a me non piace. Guarda, io ho avuto la possibilità di prendere il pitbull, ma davvero. Il Rottweiler, il coso, come si chiama? Tanti bellissimi cani, però a me piace il bulldog inglese perché è un cane molto, molto pacato, molto tranquillo, è un cane abbastanza tirioso, però è, perlomeno il mio è educativo, ma anche quello che c'era Rizzano era molto bravo, ma va una volta in due, Isio Maria Gerega, una forza allucinante, veramente, i pastori tedeschi, avrà avuto forse gli anni di Filippo, 6-7 anni, una cosa del genere, belli tosti, però non reggono dietro con le gambe, no? Non hanno questa grande forza, così dici bigiavani, quasi toccava il codino a terra, ragazzi, ma giù, ne ha volta che vai. Il pastore tedesco è più agile, ma è molto più muscoloso il tuo, sono tipi di cani diversi, dai. Ma ieri quello là mi stava facendo una pena, stando vivo gli usciva sangue dal naso e al suo sangue tutta la bava, ogni volta che stando vivo tutta la bava saltava in alto, tutti si spostava e gli ho detto portalo fuori, già lo sappiamo che c'è, se non lo capo qua scontato. E mi ha detto no, noi se non lo vede non lo fa entrare. E vabbè, lascia lui. Poi il veterinario ha visto come era tutto in terra, allora ha detto vedi, vedi, portalo dentro che gli facciamo un'iniezione intanto, perché non lo dobbiamo addormentare. Qua sacco è triste. Ma ci vedete, mando una foto di una mostra che c'era Oristano. Ti mando una foto allucinante, un orso cazzo dritto e alto quante magliana. E cos'è un alano? Cos'è? Non so cos'è un alano? Un alano, chi l'alano Gani è? Ci ha perso. ti mando questa foto cazzo. Allora morata Gianni, dove cazzo si è, eccolo qua. Ma ci vediamo. È una cosa allucinante. Ti domanda proprio come l'hanno mandato a me. Come è stata fatta la foto, ma ci vediamo. Te la sto mandando, vabbè. Un orso, leggi che cane. Un orso, ma una cosa bella. Bella così, io non l'ho mai visto. Bella. Cazzo, per un pullman inglese. Guarda, ti sto dicendo che dice Mario Lino ha detto Sciocca è una cosa pazzesca, si mettevano seduti lui si sole, questa è la foto proprio che l'hanno fatto quando il coso gli ha detto l'istruttore gli ha detto dai su cazzo vedi quanto è alto. Sì, ma hai visto dov'è? Ma si intende qua. Ma non vedi che sopra la neve questa foto fatta, ma non vedi che interrotto neve? Cosa neve? Che non è neve, gatto, che è un piattone di ghiaia bianca. Cioè, che sto neve? È ghiaino quello bianco. Ma cosa è ghiaino bianco? Non lo vedi neanche nelle zampe, quasi di zende. Di l'occhiale, forse tu hai bisogno di qualche visita. Non è neve, Massimiliano, è ghiaino bianco, ne ha nelle zampe, è un ghiaino bianco. Ma voi cosa avete da dire a chi con l'alano? Io l'alano ce l'ho avuto, è un bellissimo cane, io ho avuto l'alano Arlecchino, ed è un bellissimo cane, cazzo quello che cane è. L'alano è bello, ma bello veramente. Guarda, l'alano ce l'aveva anche mio cognato Massimiliano, è un bellissimo cane, ma questo è una cosa pazzesca. Te lo sto dicendo, è una cosa bellissima, ma veramente molto molto bella, molto bella. E ce n'è, mi stava dicendo che ce n'è uno anche a Sassari ce n'è di questi cani, uno anche a Sassari. Comunque, piazzare tutto di neve, poi, non lo so, si parte ghiaino, visto. Forse non te l'ha avvicinata bene la foto, guarda gli alberi di dietro, tutti secchi. Chiava, va bene, a me non piace questo tipo di cane. No, sì, altro che noi. Cazzo ti gioco che con un leone, ma dobbiamo mettere un leone. Il leone sai la femmina, leone, uguale. Beh, ognuno ha i suoi gusti, là. A me la verità non piace, poi ognuno ha i suoi gusti. Tipo ciuccio. Ma tipo però. Ma già va in piazza la domora. Ma festa avete gente? Festa c'è, forse c'è qualche festa di quartiere. Ci attacchiamo il processore. Che non ho fatto staccare che si intendeva un casino. Ola. Gava. Vabbè. Gappa. Sono venuto arrivando. Questa è. Questo sì, ho provato un'altra radio, è completamente diversa. Ne abbiamo già parlato, ma c'è idea. Chiudiamo un discorso, ne parliamo. Tanto non serve a niente. Abbiamo fatto mille prove, tu puoi provare qualsiasi tipo di microfono quando usi quella radio così con microfono normale, Colt, è un'altra cosa. Ma venuto da là. Ne abbiamo provato microfono al Colt, il Tana più 3, adesso l'unica è l'MB più 5. Ok, stai cambiando la connessione. MB5, hai provato anche quello che è un microfono dinamico, con alta impedenza, non so. Ma passa un po' la televisione qua. Minchia cazzo, ma cazzo sono 4:30 non conosciamo amici, ma quant'è? Non è che avrò toccato il micchichino? Ci vedo una minchia, cazzo uno e mezzo ce l'ho. A me ce l'avrei anche uno e mezzo, ma si sente meno la televisione. La televisione allora. togliamo il processore, se no è un casino, eh? Ok, bene, va così. Sì, sì, è meno spinta, però almeno non c'è tutto questo casino della televisione. Così è già. Senta anche il QRA. Niente, ma poco si intende, no? Mamma mia, scende. Vabbè, se si intende niente trudiente, no, è un peccato. Cazzacchetti un altro 10. Vabbè, cosa vedrà? Va bene, no? Gaffa, positivo, dai. A parte il fatto che non è il QRA, che la televisione ci fa vedendo, chi non capisce il grande fratello 24 su 24. Ok, adesso mi devi dare un controllo del radio, un attimino, Sì, fammi vedere, dai. Ora. Quanto è il segnale così? Vai, da 9.5 a 9.15 quasi. Cava, va bene. Parlato si può lo scala. Cos'è Olgia? Lato si fondo scala. Addirittura, cazzo, ma così ti non ha niente. Hai quella 48 scelto però già, io c'è quello gappa. Ma c'ha una grande scala, la 48. Non arriva a 9,60, però è per dirgli che il segnale è molto forte, ecco. Va bene. Faccio io, cosa sto usando? L'impianto, per carità. Perché non è sempre quello l'impianto? Non ce l'ho più quell'alimentatore grande. Cioè, me l'hai detto, l'hai portato a riparare. Sto andando con questo, qua, guarda la foto. È andato nelle varie, è tornato. Sta andando, però, hai visto che con quell'alimentatore mi avevi dato tu, a 12. E vabbè, quanto ne dà? 3, 4. Cosa si dice? Aspetta, Dai, più di 100 già li dà. Ah, vai. Ah, ragazzi, no. Giù la luce di Rosmith. 2 là. Te l'ho letto, almeno 2 li dà. Va bene, vai. Meglio di niente. Stacca la luce però, se no ti innesca. Davvero? Allora. C'è un scalo per te. Eia, devi staccare la luce quello strumento, se no innesca. Adesso ne scanno sta. No. Andà bene, là, è giusto per accompagnato, là, appena appena. Già va bene. Ottimo per la truppa. Già, rientrato sia lavoro. Come faccio adesso? Per questa gamba che mi fa male. Può cuore. Quindi c'è ancora malattia. Telefonata al cucco, mi hanno detto che o a Nuoro o a Cagliari, non ce n'è a senso. Poi tramite uno studio mi hanno detto che c'era un privato che lo faceva all'ospedale, che si fa pagare 160 euro per fare. Cosa? Quanta magnetica. Santa magnetica, 60 euro. Ho pagato 80 euro io a farla, sas. Ti hai pagato? 80. Dove? Al policlinico, quando era in Tricaballacca, là è tutto giarrato. Oh, ma ne vuole 160 questa, la fa anche all'ospedale. Tu usufruisce dell'ospedale per fare l'ambulatorio, capito? È male. Io 80 l'ho fatta in ambulatorio o al policlinico. 80 euro, no 160, capito? Questo ci vuole sgobbare. Ma il politico non so se stanno facendo queste cose. Pensa che stanno lavorando, io ho un amico, sta lavorando 2 volte al mese. Sì, che c'è Luca, qui. No, l'ho sentito Luca. Ehi, qua, ce ne sono 3 nel mio palazzo. Ehi, a futtendini, adesso già lo sistemano, non puoi. Adesso gli arriva la liquidazione. Ci hanno per 5 anni, fino all'accompagnamento della pensione, ci hanno il coso, vabbè te lo dico impresso, non cassa integrazione, vabbè, comunque, e chi è c'ha l'assegno di solidarietà, quindi già stanno bene lo stesso. Va bene, avanti Luca. Luca, vai da Luca, cazzo. Luca non fa un cazzo la mattina e la sera. Prende il reddito di cittadinanza, hai capito? Sinafutti. Cosa c'è? Pensa che l'avevo fatto entrare. Ah, c'è sempre a destra e a sinistra, vai, un coso, vai. Si chiama soldatino, Brinca un canale all'altro, guarda. Comunque Daniele l'ho battezzato, gli ho dato il nominativo mio già. Come è chiamato? Daniele Radio Schillo. cazzo, ho messo 30 kg. Johnny Stecchino. Mi visto, detto della G. Io ho detto, buono è Johnny Stecchino, tanto si assomiglia a Bull. No, non mi piace Johnny Stecchino, anche perché non. Invece Daniele Radio Spillo suona bene, invece Daniele Johnny Stecchino non mi piace. Johnny Stecchino poi ce n'è anche un altro qua, invece Radio Spillo non c'è. Ma è voce buoni Daniele Gabbo e Bognetta. No, io sono tu. Ah, ma io sono con Claudio Balocca e Bognetta. Chi è questo? Ambo. La propagazione ce l'è. Ma io proviamo andare sul palacaccio. Chi è? Ma chi è? Luca. A quello Patrizio dice tu, qua arrivi Santiago 0, Radio 1. Non c'è. Catenata. Cazzo che bello quando non si muove l'ago della stazionaria. Non state nel varia. Stiamo dicendo in goccia, non mi accorti mai. C'è la stazionaria sotto e sopra già. Sopra, in tutti i rubi. Sono andato a dare la mano, se vedi come lavora questo qua, non ti dico come. Basta mai dare la foto, che faccio WhatsApp, con la scala appoggiata al tubo, io mantenendo la scala. Un indigeno, cazzo, un indigeno. C'aveva cioè, la spirale a 5, e invece quando era del tempo si è abbassata. L'ha messa a 7, giusta, 1, rapporto 0, in tutti i canali. Dal canale 1 c'è il canale 80. Ci vediamo, ma quando attacchi ti aumenta, Matti? No, niente, sempre a 1 rimango. Non devo aumentare, no, già. No, a me mi aumenta, da 1,1 a 1,3 va. Non devono aumentare, no, se la spirale è centrata bene, la centratura di banda è giusta, non devono aumentare. A me non mi aumenta niente, nulla, manco fino a 500 watt, provate con l'amplificatore, sempre 1,1. Sarà lo stesso già, no, se le stazionarie sono fatte bene e la spirale è fatta bene, le stazionarie non devono aumentare. Io ti ripeto, non si muove l'ago in tutti i canali, anche se attaccano niente, rimane sempre fermo, cioè no, non deve aumentare. Che poi 1,3 è abbordabile, ma io schiacciavo la portante, da la portante muta non li avevo, andavo a fischiare, modulare così e salivano a 1,6, 1,8, a 2. Così è troppo. No, ma io ero troppo senza attaccare nulla. In tutti i canali c'ho 1,1, 1,2 massimo, anche nei canali alti, nei canali bassi, se però attacco aumentano. E allora c'è da sollevare poco a poco la spirale. Guarda che ti ho mandato la foto di Mastro Geppetto appiccato, ma ingrandisci, guarda come cazzo è, dove l'ha preso? Tu appena andi appiccato un riccardo. Vabbè, la scala è a 5 metri, sì, quanto è? E vai, sei gatto un coglio, sì, ma quei corvi ti fanno niente a te. Tu qui a casa tua, Massimiliano? Sì, io. Vabbè, dai. Che è un po' rischioso con la scala appoggiata così, ti vedi trucco tu. E cosa arrivate? Vai, non andare al lupo. Con la scala è da 5 metri, fa il conto dell'antenna era tutta abbassata, quindi dal tetto ho 5 metri di coso, quindi devo salire, no, è ancora più in alto, tutta abbassata, 5 metri, 6 metri sarà abbondanti, tutta bassa, poi tutta alzata, quanto l'avremo sollevata qua, da piano di tetto, quanto sarà? 8 metri sarà, 7-8 metri, cazzo, nulla mi siete a 6 metri appiccato uscito, mantenere il carasotto, capito? Ma tu usa la cinghia, ma c'è, no, non fa niente, nulla. Il tirante in tira per non muoversi il tubo, capito? La stessa cosa mi fare qua a me, però la mia è diversa perché è molto più bassa rispetto alla tua. Una volta che la mia la abbassi, il sistema mio le direttive lo abbassi e ti appoggi la gabbia con quella che ho io, la scala non chi c'è in ferro, con quella che ho io telescopica in alluminio, gli ho fatto fare anche il gancio per attaccarsi, per attaccare il maniglione, per attaccare al tubo, la scala non si muove, non è pericoloso. E poi c'è in piano, sopra le tegole, Gianni, sopra le tegole, capito? Con una scala in ferro da 5 metri, sopra i rindeuri. Non so, sono saliti io su quel tetto. quando abbiamo attaccato con l'antenna c'era anch'io, ci sei. E infatti la prima volta c'era anche Gianni, è vero. La banda del gobbo. Gianni, il Paolo e tutta la greffa. Cava. Sì, va bene. No, vabbè, poi già l'abbiamo messa così la prima volta, ma poi io qualche anno fa, forse un 3 anni fa, l'ho sollevata ancora. Sì, me lo ricordo che l'avevi sollevata. E vabbè, può cambiare sempre, là. E ti aveva reso di più sollevando, oppure più o meno lo stesso. No, vabbè, qualche punto l'ho guadagnato, così è tra. Sì, più di uno ne ho guadagnato. No, io ho un tubo da 4 metri, 2 sono staffati al muro e 2 sono liberi. 2 metri e 50, forse 2 metri e 30, una cosa del genere. Tubo d'acqua, io sono già alto, quindi a me non serve tirarla più su. Posso anche tirare su di altri 2 metri, ma non me ne ho fatti niente. Adesso vediamo, Massimilia. Secondo me, quando togliamo le direttive, la mantova la metto nel sistema delle direttive, in quel sistema lì sono 2 a muro, 2, 4, 6, 8 e quasi 10 sono, quasi 10 aggiungendo l'altro tubo, praticamente tutto il sistema che mi aveva venuto Fabrizio, due elementi li avevo tolti, però posso rinnestrarli e tirare su quasi a 10 metri. Ma io invece avrei tolto le antenne e quella l'avrei lasciata lì. Va bene, mi devi arrivare, cazzo, vai un grattacielo, tu sotto. Ma stavo dicendo solo fesserie. Cazzo, io comunque ne tutto, anche non mi c'è più nulla, mi mongo a fare un'antenna anche qui sopra. Già rimane lì dopo l'antenna, non fare due chiacchiere, arrivo in capo al mondo, no? Ma giù fa ricarico con nessuno, già va bene. La posizione l'antenna c'è già alto, questo, tutti si vede anche l'antenna senza tubo, volete? C'è 2 metri di tubo, ma giusto per radiare l'antenna, altrimenti per me andava bene anche più bassa. Ma io ho un tubo d'acqua da un pollice, senza tiranti, senza niente, messo sull'angolo lato strada, capito? È che l'angolo mio era dove c'era solo la parabola, che si vede la strada. Mi aveva chiesto il Paolotto se la potevano mettere lì, che c'erano già le staffe, e vabbè, intanto io l'antenna lì la tolgo. L'avevo tolta e avevano messo la parabola del satellitare, capito? L'impianto centrale di tratto satellitare. Se no l'angolo mio era lì, era quello il punto quando io sono arrivato qua. Vabbè, ma già va bene, vabbè, non è problema. Ma che ragione, dice, vabbè. Dici, cazzo, le 8 meno 20 sono. Beh, raga, io me ne vado, dai. Vado a farmi un girettino qua sotto, tanto il bagno ancora è impegnato. E poi mi faccio una goccetta, dai. Ci sentiamo se ci siete dopo, se no divertitevela. Baci e abbracci a tutti. Ciao, Claudio, ci sentiamo. Buona giornata. Ciao Claudio, buona passeggiata, ci sentiamo. Da poco mollo anch'io, ciao. Ciao Claudio, ciao. Stava sempre stato attento, non ti stava sempre. Ciao. Vabbè, aspetta, mi ho lasciato la porta già. Ciao a tutti, c'è anche Tino mi sembra, è entrato Setti? Oh, Tino è per fare cosa? Ehi, saluto circolare a tutti. Ehi, già vado a portare la veste, sono stanco morto. E poi facciamo la doccia, dopo che portiamo i pigiamino, e mi traiamo di qua, la mattina di varia di Deron e che sono inventato il buco. Che grazie. Cavo i bugnieri, guarda che c'è sempre quella roba tua in macchina. Lo sai che mani buone, dentro la busta in macchina, poi ci vediamo. Dai Antonio, ti lascio che devo andare. Ciao a tutti, a frappè, pa. E avanti, che chiama sul 10, avanti. E non riesco a tirarti il culo, sotto a 2-3, ma la radio è quasi zero. Non la sento quasi niente. Oh, saluto tutti, dai, che anch'io vado, mi mangio una cosa e poi porto giù il. Ciao! Ah, Massimiliano, se mi stai ascoltando, ci sentiamo domani, dai, ci dio buono. Ciao. Massimino Bulldozer, Bulldozer Massimino. Massimino Bulldozer, Massimino.